Bene, le persone libro sono tornate a farci un regalo oggi, in occasione della giornata della memoria. Vedete insieme a loro anche dei vostri compagni, perché insieme alle persone libro hanno deciso di imparare un brano di un libro. Io non dico altro, vi lascio in loro compagnia. Perché sono sicura che le parole migliori le sapranno dire loro. Quindi adesso noi, al mio via, ci mettiamo sotto la coperta e cominciamo a raccontarci queste storie. Pronti? Uno, due, tre, via! Io sono una bambina e basta di Lia Levi. Non mi piacciono i grandi quando decidono di farti un discorso. Si sentono evoluti, magnifici, ti guardano negli occhi. E cercano il tono a mezza altezza. Io sono un cuore da leone di Lia Levi. Papà e mamma un giorno avevano cercato di spiegarglielo. Sei grande ormai, aveva detto papà. Devi capire che cosa sta succedendo. E gli aveva chiesto di sedersi vicino a lui. Io sono una bambina e basta di Lia Levi. Ma non si può. C'è la guerra in Francia e i francesi non fanno entrare più nessuno. Si sa solo che i mobili e il resto, mia zia è riuscita a metterli in un magazzino. Io sono il bambino con il pigiama di John Boyne. Una volta Bruno si domandò perché Shmuel e tutte le altre persone da quella parte della rete portavano lo stesso pigiama a righe. Io sono il bambino col pigiama a righe di John Boyne. Che cosa vuol dire la loro razza? Greta sospirò e scosse il capo. Con gli altri ebrei, Bruno, non lo sapevi? Ecco perché devono essere tenuti insieme, non devono mescolarsi con noi. Sono il bambino con il pigiama a righe di John Boyne. Tanto per cominciare, non erano bambini, non tutti almeno. C'erano bambini piccoli e ragazzi grandi, padri e nonni. Io sono il diario di Anna Frank. Per una come me, scrivere un diario è una sensazione davvero strana. Non solo perché non ho ancora mai scritto, ma perché ho l'impressione che un domani, né a me né a nessun altro, potranno interessare le confidenze di una ragazzina tredicenne. Io sono diario di Anna Frank. Chi non scrive non può sapere quanto sia bello scrivere. In passato mi dispiaceva di non saper disegnare bene. Ora invece sono super felice di sapere almeno scrivere. E se non ho talento per scrivere giornali o libri, beh, potrò pur sempre scrivere solo per me. Io sono diario di Anna Frank. Andare in bicicletta, ballare, fischiettare, osservare il mondo. E sentirmi libera, sapere di essere giovane. Ecco cosa vorrei, ma non posso darlo a vedere. Io sono le scoperte di Elisabetta di Teresa Castellani. Ce ne andremo separati. La mamma ed io ci dirigeremo verso il nord, a Ferrara, per unirci a dei parenti che ci ospiteranno. Io sono le scoperte di Elisabetta di Teresa Castellani. Quella fu l'ultima volta che vidi mia moglie e mia figlia. Anche loro, come tutti i nostri familiari, finirono nelle camere a gas e poi nei forni crematori, perché in realtà Auschwitz era un campo di sterminio. Io sono le scoperte di Elisabetta di Teresa Castellani. Nonna Anna, credi che oltre a nonno Piero e a nonno Michel, anche Sterina e la piccola Sara e tutti quelli che hanno sofferto e sono morti possono vederci dal loro osservatorio? Io sono le scoperte di Elisabetta di Teresa Castellani. Quando parla, la sua voce è limpida, quasi giovane. È una voce che fa pensare a una persona forte. Io sono le scoperte di Elisabetta, di Teresa Castellani. Quei governi non soltanto avevano tolto la libertà a tutti, ma avevano anche scritto delle leggi contro gli ebrei, perché dicevano che noi eravamo pericolosi e diversi dagli altri.